Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e bentornati a Radio Doc. Questa sera ricostruiamo la vita di Frank Serpico, poliziotto italo-newyorkese che a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 mise a repentaglio la propria vita per denunciare la corruzione della polizia di New York. La sua coraggiosa storia continua ad ispirare persone che, come lui, credono nella verità. Frank Serpico non è solo un poliziotto onesto, ma un grande eroe americano. Questa è la sua storia. Il 14 aprile del 1936, a Brooklyn, Vincenzo e Maria Serpico danno il benvenuto al loro quarto figlio, Frank. I genitori di Frank sono immigrati italiani che a fatica sbarcano il lunario e allevano i figli con grandi sacrifici. Il padre di Frank è un abile calzolaio molto fiero della sua bottega, dove trascorre molte ore, a pochi isolati dall'abitazione di famiglia. Mio padre era una persona molto buona, che si opponeva all'autorità e credeva in se stesso. La famiglia Serpico vive in un modesto appartamento in un quartiere popolare, dove coltiva un singolare giardino. Ma è Frank che sviluppa un rapporto più profondo con la natura. Ha una particolare affinità con uccelli e animali. Ama giocare all'aperto con i suoi amici e con sua sorella. Giocavo in strada insieme a mio fratello. Giocavamo a stickball, con un manico di scopa, oppure con delle biglie di vetro. Non avevamo giocattoli. Spesso Frank si costruisce dei giocattoli dei quali è molto geloso. Nel bidone dell'immondizia avevo trovato una pistola giocattolo come quella di Ginotri, che tenevo insieme con un pezzo di filo metallico. Per Frank i poliziotti sono i buoni. Si emoziona quando li vede in azione. Quando scopre che alcuni agenti abusano del loro potere, è sconvolto. Un giorno, nel negozio di mio padre, è entrato un poliziotto. Mi sembrava un dio nella sua uniforme e con tutti quegli ornamenti che aveva. Gli feci la lucidatura migliore che avessi mai fatto a qualcuno. Sono stato anche molto attento a non sporcargli i calzini con il lucido e alla fine mi sono alzato orgoglioso del mio lavoro. Ma lui non mi ha neanche ringraziato. Anzi, è uscito come se gli fosse dovuto. Non mi ha dato nemmeno la mancia e tantomeno ha pagato. Pensai che non fosse giusto. L'episodio segna profondamente Frank, che non dimenticherà mai l'accaduto. Poi, durante un viaggio in Italia con la famiglia, capisce cosa vuole fare da grande. Quando avevo circa 13 anni, sono andato in Italia con la mia famiglia a trovare mio nonno, che non avevo mai conosciuto. C'era anche uno dei miei zii, che era un carabiniere. Sono rimasto impressionato dall'immagine di sicurezza e gentilezza che esprimeva. Portava con sé una piccola custodia dove teneva la beretta e quando andava in giro per il paese si vedeva che la gente lo rispettava. Credo che abbia lasciato un segno profondo in me. Quando Frank torna dall'Italia è deciso a diventare un agente di polizia come suo zio. Entra alla St. Francis Preparatory Academy. Nella domanda deve indicare quale carriera sceglie. Non ha dubbi. Agente in borghese. Per sbarcare il lunario, svolge vari lavori part-time. Vende frutta e verdura ai mercati generali. Fa illustra scarpe presso il negozio di suo padre o davanti all'entrata del Giardino Botanico di Brooklyn. I giardini pubblici sono il suo paradiso personale, un'isola di salvezza dal caos cittadino. Dopo il diploma alla scuola superiore, nel 1954, a 18 anni, segue l'esempio di suo fratello maggiore e si arruola nell'esercito. Rimane in Corea per 2 anni, durante i quali viene influenzato dalla cultura asiatica. Parla già correttamente italiano, francese e spagnolo, e adesso anche giapponese. Al termine del servizio in Corea, torna negli Stati Uniti deciso a diventare un poliziotto. Si iscrive all'Università di Brooklyn e si specializza in scienze di polizia. Nell'estate del 1959 il suo sogno di bambino diventa realtà quando supera l'esame per entrare nella polizia di New York. L'11 settembre giura come agente di controllo per detenuti in libertà vigilata, ma ben presto si rende conto che non sa nulla di quel mondo, che ci sono metodi ben collaudati per eseguire il lavoro, parametri di comportamento che sta per imparare e rifiutare. La prima lezione come poliziotto verte su un argomento che non ha studiato all'Accademia. La corruzione. Serpico si trova su un'inevitabile rotta di collisione che cambierà non solo la sua vita, ma l'intera struttura del Dipartimento di Polizia di New York. Il 5 marzo 1960 Frank Serpico diventa un agente di pattuglia della polizia di New York. Come molti altri dipartimenti del paese, quello di New York è un ambiente conservatore. I poliziotti formano una confraternita di cui Frank non conosce le regole non scritte. Alcuni sono onesti, ma molti altri sono notoriamente corrotti e prendono regolari tangenti per proteggere i criminali e i loro compagni. Murray Wise, giornalista del New York Post. Avevano molto potere. La regola era che mentre si avvicinavano a coloro cui erano asserviti, questi ultimi gli davano denaro per continuare ad assicurarsene i servizi. Serpico impara ben presto che la corruzione spiana la strada alla carriera. Nel 1960 Serpico è in servizio presso l'81esimo distretto di Brooklyn. Per fare carriera esistono due modi: eseguire molti arresti per costruirsi un solido curriculum ed essere raccomandato per il grado di detective oppure superare difficili esami. Serpico sceglie la lotta al crimine. Ogni volta che arrestavo qualcuno, il tenente si irritava perché stava studiando duramente per diventare capitano. A volte in una sola notte eseguivo due o tre arresti. Di solito chi ne effettuava uno era libero per il resto della notte perché il giorno dopo doveva presentarsi in tribunale. Io invece volevo finire il mio turno, per questo non andavo d'accordo con i miei capi. Frank comincia a contestare seriamente i superiori quando, dopo un arresto fuori servizio, lo interrogano severamente come se il criminale fosse lui. I suoi colleghi lo attaccano. Non approvano che faccia rispettare la legge anche fuori servizio, ma non se ne cura. Non giocherà secondo le loro regole, anche se questo gli attirerà l'antipatia dei colleghi. Il suo operato e la sua personalità irritano gli altri agenti. Paulie DeLise, ex ispettore di polizia di New York. A renderlo diverso erano la sua personalità e il suo aspetto. In quel periodo nessuno portava i capelli lunghi o si faceva crescere la barba. Ma lo stile di Frank, jeans e maglietta, è quello di molti altri newyorkesi della metà degli anni 60. Spesso la squadra di Frank presta servizio in borghese. A giudicare dal suo aspetto, non si direbbe che sia un poliziotto. I suoi compagni trovano strano il suo stile di vita bohemien. Scrive poesie, studia filosofia, ama il balletto e i film stranieri. Suo fedele compagno è un cane pastore di nome Alfie. Serpico viaggia molto. Quando vive a Greenwich Village, patria degli hippie e della cultura della droga, Serpico nasconde di essere un poliziotto. I suoi vicini credono che sia una guida turistica. Il suo stile è fuori del comune, ma quando deve far rispettare la legge è conforme alla giustizia. Nel 1966 è ancora un agente di pattuglia quando gli viene proposto il trasferimento nell'unità in borghese del 90esimo distretto. Vede avvicinarsi il distintivo di detective. Circola alla voce che molti di quegli agenti sono poco puliti, così ne parla il suo capitano. Gli dissi che era noto a tutti che quegli agenti erano corrotti e lui mi disse: Frank, nessuno può costringerti a fare quello che non vuoi fare. Ho pensato, mi basta. I suoi timori si confermano quando diventa testimone delle tangenti che i suoi colleghi intascano per coprire il racket del gioco d'azzardo e della prostituzione. Lui non vuole saperne, ma i suoi colleghi insistono affinché partecipi incassando un extra mensile di $200. Non mi permettevano di fare il mio lavoro e di arrestarli. Gli ho perfino detto che era un problema loro. Se volevano prendere tangenti, io non avrei preso un soldo. È solo questione di rimanere fedeli a se stessi. Prevale la cultura del silenzio. Gli agenti onesti non denunciano i corrotti. Il netto rifiuto di Serpico irrita i suoi compagni corrotti. Se non entra nel giro, nessuno di loro è al sicuro, così tentano di coinvolgerlo. Un giorno del 1966 Frank sta per lasciare il distretto quando nel garage lo avvicina un agente che gli consegna una busta e scappa. All'interno $300. Serpico è con le spalle al muro. Può tenere il denaro ed essere considerato un corrotto o denunciare i suoi compagni e passare per traditore. Frank riferisce l'accaduto, ma è disgustato quando scopre che il capitano presso il quale cerca sostegno ed altri ufficiali di grado elevato non solo sanno, ma approvano. Il suo compagno non vuole che si sappia che lui è pulito, così ne intasca la quota. quei soldi sparivano. Così, quando il mio nuovo compagno è stato trasferito e io gli ho detto che non prendevo tangenti, è rimasto scioccato. Sono furiosi. Sono stati defraudati dalla parte di Serpico. Inoltre, lui costituisce un pericolo per loro. Potrebbe denunciarli. E poi, non è affidabile. Renzi Clark, suo avvocato. Non voleva stare al loro gioco, tutto qui. Sperava che finisse. Che se resisteva avrebbero smesso. Ma invece le cose peggioravano, perché diventavano sempre più insistenti e lui non aveva intenzione di cedere. David Dorsen, ex membro del Dipartimento Investigativo di New York. Frank Serpico si è rivolto inizialmente a tutte le organizzazioni governative. Ha cercato di mantenere la cosa all'interno del Dipartimento. Si è rivolto anche all'allora sindaco John Lindsay. Nessuno lo ha ascoltato. Serpico continua a ripetere la sua storia, ricevendo la promessa che verranno presi provvedimenti. Finalmente, nel 1968, il procuratore distrettuale del Bronx persegue un caso di corruzione che vede coinvolti 8 agenti in borghese. Vuole che Frank testimoni, ma se lo farà, il suo destino sarà segnato. Ancora David Dorsen. Non era facile per lui. Riceveva minacce di morte. Lo si diceva in giro e lui lo percepiva. I poliziotti minacciavano con modi subdoli ma inequivocabili di ucciderlo. Era una situazione terribile per lui. Serpico ignora le minacce e testimonia confermando le accuse. Gli ufficiali superiori convocati davanti al Grand Jury negano gli addebiti. Saranno puniti solo gli ufficiali di grado inferiore, 2 di loro arrestati, gli altri costretti a rassegnare le dimissioni, le loro carriere distrutte. Serpico ha violato il codice del silenzio. È solo, isolato. I colleghi non si fidano di lui per via della sua onestà. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del documentario dedicato alla vita di Frank Serpico. Dopo aver testimoniato in un processo di corruzione contro i suoi colleghi, Serpico rimane solo isolato a causa della sua onestà. All'inizio del 1969, Serpico si trasferisce a Manhattan. Ancora fiducioso di diventare detective, accetta di essere assegnato alla buon costume in servizio a Times Square. Prende l'incarico seriamente. Non ero più un poliziotto, ero un attore. Dovevo tingermi i capelli, tagliare la barba, parlare con un accento diverso, cambiare abbigliamento. Spesso in una sola notte esegue numerosi arresti, eclissando nuovamente i colleghi che si accontentano di un solo arresto per ogni turno. Nessuno vuole fare coppia con lui, fino a quando incontra l'ispettore Paul Delisle. Dalla sua espressione ho avuto l'impressione che si portasse dentro un peso tremendo. Sembrava un po', come dire, trascurato, ma aveva gli occhi più sinceri che avessi mai visto. È un incarico nuovo per Delisle, un poliziotto onesto, soprannominato San Paolo. Anche lui sa che molti dei suoi agenti sono corrotti. Si offre come partner di Serpico. L'ironia è che ogni volta che uscivamo dovevamo seminare gli agenti che ci pedinavano. Ci controllavano per vedere dove andavamo ed essere sicuri che non avremmo mandato all'aria nessuna delle loro operazioni. Frank non vuole più soffrire in silenzio. Esasperati dalle risposte evasive che continuano a ricevere, Frank e il suo amico dai forti legami politici, David Dark, si rivolgono all'organo più potente che riescono ad immaginare, il New York Times. Il giornalista David Burnham comprende il dilemma in cui si trova Serpico, che rifiuta di venire meno ai suoi principi. All'inizio la storia era così piena di aneddoti e di salti temporali che sembrava poco coerente, quasi senza senso. Oltretutto raccontata in gergo poliziesco, ma l'impressione che avevo era che fossero 2 persone serie che stavano raccontando una storia vera. Serpico e Dark sono in ansia. Non hanno nessun altro a cui rivolgersi e hanno dubbi sul risultato. Ho parlato con numerosi altri poliziotti che mi confermarono che in tutta la città l'unità in borghese, compresa quella di cui Serpico faceva parte, era una vera e propria agenzia di scommesse. Era una situazione che andava avanti da un centinaio d'anni, era una cosa consolidata ormai. Per poter uscire allo scoperto manca ancora un elemento, un ufficiale superiore che garantisca credibilità. Serpico chiede al suo capo, Paul Delisle, di appoggiarlo. Gli chiesi se si rendeva conto di cosa potesse significare per la mia carriera. Ma non avrei più potuto guardarmi allo specchio se non avessi aiutato quei due uomini con cui lavoravo, così leali all'integrità del dipartimento. Volevo fare qualcosa, gli si stavano chiudendo tutte le porte, così decisi di appoggiarli. In quattro, compreso l'ispettore Delisle, si recano al Times per incontrare Burnham e il redattore capo. Abbiamo parlato fino all'una o alle due di notte della corruzione, di tutto quello di cui erano stati testimoni e dell'incapacità del dipartimento di affrontare il problema. È stata una riunione interessante. Non credo che molti altri giornalisti siano mai stati intorno a un tavolo con un gruppo di poliziotti, tra cui un ufficiale di alto grado, che denunciano altri ufficiali per aver accettato tangenti. Erano addolorati perché amavano il loro dipartimento. Il 25 aprile del 1970 la storia viene pubblicata. Tangenti alla polizia, pagati milioni. Il fallimento degli ufficiali. La corruzione riempie le prime pagine dei giornali e la reputazione degli alti funzionari macchiata. Onesti e disonesti sono tutti coinvolti. Murray Wise, giornalista del New York Post. Il Times è un giornale potente. Una notizia come quella, pubblicata in prima pagina, che riguarda un aspetto tanto importante della vita della città di New York, ha un effetto estremamente potente. Alla vigilia dello scandalo, il commissario si dimette. Il sindaco incarica una speciale task force, la commissione Knapp, di indagare. Ma il suo coraggio non regala a Serpico alcuna ricompensa. Non il distintivo da detective, solo un altro trasferimento alla narcotici. L'animosità nei suoi confronti cresce a dismisura. La prima volta che ho incontrato il mio ispettore alla narcotici, mi ha guardato in faccia e mi ha detto: «Senti, Serpico, qui non farai quello che hai fatto lassù». Con lassù intendeva il Bronx. E mi disse: «Quella era robetta. Qui parliamo di veri soldi. E tu non devi averci niente a che fare. È chiaro?» Alla narcotici non ci sono comitati di benvenuto per Serpico. È solo. Il 3 febbraio 1971, Serpico partecipa ad un blitz antidroga con due agenti. Constatato che il sospetto ha effettuato una vendita, Serpico bussa alla sua porta e, parlando spagnolo, si finge un cliente. Lo spacciatore socchiude la porta, ma Serpico la sfonda. Il suo piede rimane incastrato. Lo tenevo sotto tiro, ma ero bloccato dalla porta e mi sono girato per dire ai miei compagni: «Che aspettate? Datemi una mano!» E quando mi sono girato, un flash. Gli ho sparato una mano. Ricordo una scia di sangue. Il sospetto spara per primo. L'unico colpo ferisce Frank al volto, facendolo barcollare all'indietro. I due compagni di Frank sono nell'atrio. Non chiamano i soccorsi. Una delle prime cose che i cadetti imparano all'accademia. Tra le urla e la confusione, Frank rimane a terra in un lago di sangue. Un inquilino, che dopo aver udito lo sparo ha chiamato la polizia, si prende cura di lui. Serpico viene trasferito nel vicino ospedale. Frammenti di proiettile sono ancora nella sua testa, il suo udito è seriamente danneggiato. Il suo sogno di bambino di combattere i criminali si è infranto. La mia esperienza peggiore è stata anche la più positiva, ed è quando mi hanno sparato. Ho sentito quella voce, era come un tuono. E ho rivisto la mia vita a rallentatore, che mi diceva che era tutta una menzogna. Frank è in congedo per malattia, ma di fatto la sua carriera è finita. Nel maggio del 1971 riceve quello che ha sempre desiderato, il distintivo da detective. Ma è troppo tardi, non ha più alcun significato. È il moderno Davide che ha combattuto il gigante del dipartimento di polizia. Decide di collaborare alle indagini della commissione Knapp. All'udienza Serpico risponde alle domande per quasi 3 ore. Ancora David Burnham. Quando la commissione concluse le indagini, stabilì che la stragrande maggioranza dei poliziotti erano corrotti. Ancora Murray Wise. Non c'è dubbio che le conclusioni della commissione Knapp cambiano in modo definitivo il funzionamento del dipartimento. Primo, essa ha portato alla luce il problema, il che era fondamentale. Secondo, ha esposto la polizia ad un pubblico esame, rendendola più trasparente. E terzo, viene creato un ufficio per gli affari interni che davvero comincia a controllare gli agenti. Per Serpico si chiude un capitolo della sua vita. Nel 1972 si dimette. Un libro sulla sua carriera è lo spunto per un film. Al Pacino is Serpico. The man, the book, the movie, the performance. Stanco dell'attenzione che il film riversa su di lui, Frank prende il suo cane Alfie e parte per l'Europa. Prima tappa l'Italia, la Svizzera, poi una fattoria in Olanda. Qui si innamora di Mary Ann, una giovane donna divorziata. Quando anche i suoi due figli si trasferiscono da lui, Serpico ha una famiglia. È felice, la sua vita ora è meravigliosa. Ma durerà poco. La sua felicità verrà stroncata dalla morte prematura di Mary Ann a 29 anni a causa di un cancro. Decide di tornare in America, dove viaggia in lungo e in largo. Negli anni 90 Serpico si gode la vita da pensionato, ma spesso tiene conferenze sulla corruzione della polizia e sui cambiamenti che il Dipartimento di New York deve apportare. Nel 2002 Serpico prende parte al POGO, un progetto per la supervisione del governo, un'organizzazione no profit che investiga e denuncia la corruzione in tutte le aree del governo federale. Sono passati più di 30 anni da quando Frank Serpico ha denunciato la corruzione della polizia di New York, costringendo il sistema a cambiare. La sua storia per la ricerca della verità e della giustizia continuerà ad ispirare le persone per anni. Vi segnaliamo che questo documentario andrà in onda su History Channel mercoledì 10 dicembre a mezzanotte col titolo La vera storia di Serpico. Un ringraziamento in redazione a Laura Marchesi. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.